Il primo volume, L'alchimia di Partenope, contava un buon successo di vendite. Avevo deciso di pubblicare un approfondimento sulla meditazione sirenusia per poi ritirarmi dalla scena pubblica, ma i piani di destino erano diversi. Una fredda sera di dicembre mi trovavo a casa, placidamente disteso sulla poltrona dello studio. Ascoltavo nella penombra la musica chill out degli Enigma, sorseggiando un ottimo tè verde allo zenzero. Tra le mani stringevo una raccolta di poesie di Giacomo Leopardi, quando mi abbandonai completamente alla stanchezza. Nella mente echeggiavano solo le parole del Vate: «Vivi tu, vivi, o santa natura! Vivi, e il dissueto orecchio della materna voce il suono accoglie». Quasi addormentato, tra veglia e sonno, in quel luogo lontano da ogni pensiero e angoscia, udì ancora una volta il canto di Partenope. Ero a contempo felice e incuriosito da quello che sarebbe successo. Sapevo di dover svolgere il mio compito senza riserve, in quanto non concesse. Poche parole, dolci e lievi, da sapore d'un arcano incanto, mi indicarono la via. Svela la mia dottrina. Esse avrebbero segnato 3 anni di ricerche, conducendomi in un viaggio straordinario. Tutto il materiale riportato in questo volume, Arcana Partenope, è tratto dalle edizioni originali del XIX secolo. Talvolta è stato necessario apportare dettagli o intervenire sul desueto lessico ottocentesco, senza però cambiarne il significato o tradirne l'intenzione. In questo volume il lettore troverà il fondamento storico, simbolico, morale, nonché ermetico della scienza palladia, l'esplicazione delle dottrine a cui si è accennato nel precedente volume, congiuntamente alle fasi più avanzate dell'estasi sirenusia. Uno speciale ringraziamento va alla mia compagna di vita, Jenny Lynn, per avermi coadiuvato nelle ricerche presso la British Library.